Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentrovati a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Zucchine, pomodori, insalata, patate, frutta e verdura di stagione, dove li andiamo a comprare? Che domande, direte voi, dove li abbiamo sempre comprati? Al supermercato, al mercato, dal fruttivendolo sotto casa. Però, lo ricorderete bene, nei mesi scorsi, quando i prezzi dell'ortofrutta, insieme a quelli di tanti altri generi alimentari, erano volati alle stelle per il costo dei carburanti, che erano cresciuti altrettanto a luglio di un anno fa, $150 al barile, era improvvisamente cresciuto l'interesse verso i farmer market, cioè i mercati del contadino, i mercati degli agricoltori, dove è possibile comprare direttamente i prodotti degli allevamenti e della campagna, con l'obiettivo di gestire in qualche maniera il problema della corsa dei prezzi, senza rinunciare però a prodotti ortofrutticoli di qualità, quelli della nostra terra. E nei mesi scorsi avevamo più volte parlato di questa nota iniziativa di Coldiretti, Campagna Amica, che adesso si è del tutto istituzionalizzata su tutto il territorio nazionale ed è diventata, con i suoi 20.000 punti vendita firmati da agricoltori, la più estesa rete commerciale con prodotti italiani al 100%. È forte di questa rete di punti vendita il mondo dell'agricoltura ha proposto il piano Spesa Sicura, ovvero una filiera agricola tutta italiana. È un'iniziativa che evidentemente al mondo del commercio non è piaciuta particolarmente. A noi questa mattina non interessa affrontare questa polemica, ci interessa capire quali sono i vantaggi di questa iniziativa per i consumatori. Allora ne parleremo con i diretti interessati, con Stefano Masini, responsabile consumi di Coldiretti, che è già collegato telefonicamente con noi. Masini, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere intervenuto a Salva Danaio, così come ringrazio di essere ritornato invece a Salva Danaio Gianni Cavinato, presidente dell'ACU, Associazione Consumatori Utenti. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24 è il numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Vedo già qualche ascoltatrice in particolar modo che già freme per poter intervenire sull'argomento. Ci fa piacere che sia così, che siate così attenti su queste tematiche. 349 238 6666 invece è il numero per i vostri messaggi. La borsa questa mattina, andiamo a dare un'occhiata a questa bella giornata sui mercati. Abbiamo Londra che cresce dello 0,53%, abbiamo Parigi che cresce dello 0,72%, la piazza di Francoforte è un po' più prudente, più 0,10%, mentre è ben più brillante Piazza Affari, che sta segnando un rialzo dell'1,12% sull'S&P MIB. In realtà cresceva anche di più, 1,5%, grazie a chi? A Mondadori, più 7%. Beh, titolo editoriale, ne abbiamo già parlato negli ultimi giorni, aveva perso molto terreno nell'ultimo anno. In questi giorni anche grazie o a causa, diciamomola come la vogliamo, di questo divorzio insomma fra il premier e la moglie, si sono ovviamente alimentate tutte le speculazioni possibili su tutti i titoli della galassia Fininvest, quindi anche su Mediaset e su Mediolanum, ma Mondadori ne sta beneficiando molto più degli altri e stamattina anche mette a segno appunto questo progresso di 7 punti. C'è da dire anche che le ricoperture del settore editoriale fanno la loro, insieme a CIR più 3,48%. Questo gruppo, da quando ha presentato la trimestrale, è cresciuto qualcosa come il 30% negli ultimi 5-6 giorni. In pregiro più 3,77, bene oggi anche il settore bancario, nonostante si sia a questo punto si stia concretizzando questa ipotesi che circola negli Stati Uniti, secondo la quale molte delle banche sottoposte allo stress test da parte dell'amministrazione americana avranno bisogno di ricapitalizzarsi. Si parla per esempio di Bank of America, della necessità di ricorrere al mercato per almeno 34 miliardi di dollari, 5-10 miliardi invece saranno necessari per esempio per ricapitalizzare Citigroup. Non abbiamo ancora i dati definitivi, lo sapremo solamente domani. Ma di fatto questa prospettiva non turba affatto il settore bancario europeo questa mattina, che invece guarda ai dati della francese BNP Paribas, che sta andando piuttosto bene questa mattina sul listino francese. Il titolo guadagna 6,5 punti, insieme a Dexia più 8,54 e ad altri titoli del settore appunto tutti positivi. Segno meno invece su Parmalat, meno 1,71, Ubibanca meno 1,67, siccome da qualche tempo guardiamo in maniera ossessiva Fiat, la guardiamo anche questa mattina con attenzione, più 0,6% per i titoli del lingotto a 8,11 euro. Domani abbiamo la riunione della Banca Centrale Europea, avremo probabilmente una nuova riduzione del costo del denaro nell'eurozona, peraltro questo sarà anche il tema che affronteremo domani a Salvadanaio, ve lo anticipo già, con tutti gli effetti sui mutui, sui titoli di Stato, sui nostri investimenti, sui conti di deposito, quindi cosa succede con tassi sempre più bassi nell'eurozona. Ma noi torniamo invece al tema di questa mattina, parliamo di prodotti dell'ortofrutta, dove vanno i prezzi, e soprattutto oggi parliamo un po' più nel dettaglio di questa iniziativa di Coldiretti, Piano Spesa Sicura. Risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità, è possibile? Il dilemma non ha ancora trovato una risposta convincente. La soluzione potrebbe arrivare dall'alleanza tra produttori e consumatori, uniti nel combattere inefficienze e speculazioni della filiera, che nel 2008, con l'inflazione alle stelle, sono costate alle tasche degli italiani ben 4 miliardi di euro. Così, dopo l'esperienza dei farmer market e dei gruppi di acquisto solidale, si allarga l'offerta basata sul rapporto diretto tra produttori e consumatori. Si tratta dell'iniziativa Campagna Amica di Coldiretti, che comprende una rete nazionale di ben 2.000 mercati, 2.000 punti vendita delle cooperative, 1.000 consorzi agrari, 2.000 agriturismi e 10.000 aziende agricole, ed è aperta anche alla partecipazione della distribuzione e della rete di ristorazione a chilometri zero. A parità di qualità, nei punti vendita della rete Campagna Amica, i prezzi sono inferiori di almeno il 30%, sulla base di un accordo con le associazioni dei consumatori. In questo modo si riduce la forbice dei prezzi, che oggi aumentano in media quasi 5 volte nel passaggio dal campo alla tavola. Secondo dati Ismea, ad esempio, un chilogrammo di zucchine all'origine ha un costo di 41 centesimi, ma in media al consumatore milanese costa 2,80 euro e in qualche caso fino a 5 euro al chilo. Lo stesso vale per un chilo di mele, prezzo all'origine 60 centesimi, che al consumo diventa 1,75 euro per un abitante della capitale. Va meglio al sud, dove per un chilo di pomodori si passa da 64 centesimi a 1,62 euro al consumatore finale. Il progetto Campagna Amica ha però anche un altro obiettivo, quello di garantire l'italianità dei prodotti. Con il piano Spesa Sicura, Coldiretti intende contrastare il fenomeno del finto Made in Italy. Inoltre, la vendita di prodotti locali, cosiddetti a chilometro zero, ha un vantaggio non solo economico, ma anche ambientale. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, per porci i vostri quesiti, ma anche, se lo riterrete opportuno, le vostre perplessità intorno ad iniziative di questo tipo, oltre a quelle già chiaramente espresse dal mondo della distribuzione. Poi magari avremo anche il modo di parlarne questa mattina. 349 238 6666 è il numero per i vostri messaggi. Guardate, stamattina parto non sentendo gli ospiti, ma sentendo direttamente i nostri ascoltatori. Maria da Roma, benvenuta. Buongiorno. Mi aiuti ad inaugurare la trasmissione. Con molto volentieri. Allora, l'argomento intanto mi interessa molto, perché io sono una di quelle che a cui piace mangiare sano e far mangiare i figli in maniera sana, anche perché ho un figlio che è allergico a tutte le sostanze chimiche. E quindi insomma devono triplicare anche le attenzioni. Io sono stata costretta a comprare un terreno, per fortuna l'ho comprato, un uliveto, dove coltivo per lui l'insalata, tutto ciò che non si cuoce. Allora, io dico, una volta ho comprato dei carciofi e ci ho trovato una pasticca dentro. Ecco. Blu. Cioè proprio lei, assurdo. Poi, no, che tra l'altro sta attenta a tutto questo, poi sa com'è, esatto, il destino, no? Che si accanisce. L'ho buttato, certo. Quando mi sono accorto ho buttato tutto, però l'avevo pagato un bel po' di soldi all'euro, che è molto caro anche il mercato. Allora io dico questo, voi non c'entrate niente, fate da tramite, che c'è queste filiere, che ci sono queste cose, a parte le filiere, cioè ci sono questi contadini che vendono i prodotti naturali, a parte che non si trova niente, si trova solo l'insalata, la dieta, cose che crescono naturalmente in qualsiasi terreno, perfino in un giardino possono. Quindi insomma crescere. Lei dice che sono delle iniziative valide, però, ma iniziative dovrebbero essere un pochino più attente, anche perché i prezzi, poi per esempio sono andata a un mercato di Piazzale Clodio dove sta mio figlio e i prezzi non erano così bassi. E poi non ho la garanzia che siano prodotti italiani, perché ci sono tutte persone straniere che lì vendono. Beh, ci mancherebbe altro. Allora magari il mercato cui si è indirizzata lei, Maria, non era uno di quelli di Campagna Amica, di Coldiretti, adesso non per sponsorizzare stamattina esclusivamente questa iniziativa, probabilmente qua c'è comunque un meccanismo particolarmente strutturato che peraltro è consolidato anche da anni, pertanto i controlli sono sicuramente attenti. Detto questo, magari chiediamo subito un commento al nostro amico della Coldiretti, Stefano Masini, appunto responsabile consumi di questa grande associazione del settore agricolo, in che tipo di disavventura può essere incappata la nostra ascoltatrice, che in realtà tutto sommato anche di questi mercati degli agricoltori non si fida più di tanto. Bentornato, perché l'abbiamo già salutata prima. Eccoci, grazie ancora. Ma per rispondere molto garbatamente alla signora, probabilmente è in corsa in un inconveniente a cui tanti consumatori, affacciandosi anche nei mercati rionali, si sono trovati di fronte. Cioè, da tempo immemorabile il commercio vede anche percentualmente la presenza nei posteggi, secondo logiche percentuali, di agricoltori. Questi mercati però non intendono promuovere un progetto così completo, complesso, in cui sanità, sicurezza alimentare, qualità si unisce con la ricerca della convenienza. I mercati di Campagna Amica, ecco, sono infatti una cosa come li riconosciamo, tanto per cominciare? Li riconosciamo con i loghi, con i colori gialli che rispondono a quelli della Coldiretti. Dietro c'è un disciplinare, dietro ci sono delle regole di organizzazione, dei criteri di arruolamento, per così dire, degli imprenditori, che debbono prestare delle garanzie operative riguardanti il proprio metodo di produzione. Quindi non è che un agricoltore arriva, adesso a parte il fatto che possa essere iscritto a Coldiretti o meno, e dice io voglio allestire un negozio secondo questo criterio, deve avere già, come dire, una certa struttura alle spalle, immagino, per potersi guadagnare questo bollino, Masini, chiamiamolo un po' così. Sì, sì, ci sono delle regole che riguardano sia, per così dire, la parte del commercio, ma soprattutto la parte della produzione. Quando noi diciamo del progetto una filiera tutta agricola, tutta italiana, ma anche, aggiungiamo, firmata dall'agricoltore, ecco, quella firma porta una responsabilità per poter direttamente poi essere interlocutori della signora, che ha un nome e che può essere fidelizzata soltanto attraverso la soddisfazione, attraverso la costruzione di una credibilità che c'è dietro un singolo atto di acquisto. Quello che mi stupisce è che la nostra ascoltatrice poi magari, non lo so, forse si è guardata intorno in un ambito geografico ristretto, insomma, come mai su Roma non avesse trovato qualcosa di un po' più organizzato rispetto a questo rivenditore in cui è incappata, ovviamente chiaramente anche per questioni di sfortuna, adesso non lo so, ma insomma su Roma sarete presenti, immagino. Masini, sì. Non con ancora dei farmer market, cioè dei veri e propri mercati. Il discorso con il comune è iniziato da qualche tempo e il sindaco di Roma ha promesso l'allestimento degli spazi. Quindi insomma è vero. Certo, esistono molte imprese che fanno vendita diretti, cui indirizzi possono essere rinvenuti nel sito di Campagna Amica e che apprestano le stesse garanzie di cui noi stiamo parlando in termini di efficienza e di sicurezza. Insomma, Gianni Cavinato, presidente dell'ACO, Associazione Consumatori Utenti, tra l'altro è una delle associazioni dei consumatori che aderisce all'iniziativa SMS Consumatori, poi ne parleremo per capire anche insomma com'è andata in questi mesi, che tipo di servizio è, che utilità per i consumatori. E allora, andare direttamente al produttore, il tema, come abbiamo detto anche in apertura, che è diventato molto caldo negli ultimi mesi perché i prezzi ci sfuggivano da tutte le parti, soprattutto per questi prodotti della nostra terra. Cosa ne pensa di questi farmer market e soprattutto di un'iniziativa strutturata di questo tipo? È questa l'esigenza del consumatore? Beh, sicuramente queste esperienze, già consolidate in altri paesi europei, non solo, insomma, sono ben viste dai consumatori, almeno da quella parte di consumatori sensibili, disponibili, come dire, ad avere un rapporto diverso con il produttore o comunque anche con l'ambiente, no? Perché muoversi come consumatore, non andare al consueto centro commerciale o comunque negozio sotto casa, comunque comporta, come dire, una, una cultura un po' diversa, insomma, una voglia, una voglia di acquistare diversamente, quindi di scegliere. Quindi è il principio della scelta, il diritto della scelta, è un diritto universale dei consumatori, tra l'altro stabilito dall'ONU addirittura, insomma, quindi voglio dire, far capire che significa che questo tipo di iniziative che noi apprezziamo hanno questo scopo principale. Dopodiché è chiaro che le attese sono moltissime. Se questa moltiplicazione del 5% dei prezzi la possiamo evitare. Esatto, le attese sono moltissime perché uno si attende non solo un prezzo un attimino più controllato, diciamo così, ma anche una qualità, no? E poi anche, perché no, la garanzia di un'origine, cioè questa dell'origine diventa sempre più un problema vero per il consumatore italiano, comunque per il consumatore europeo, ma italiano e mediterraneo in particolare, perché c'è tutta una cultura che sta alla base di questo ragionamento. E quindi l'origine, come dire, è una garanzia in più, almeno nel pensare comune, la percezione diffusa, insomma, significa anche tutelare, comprare prodotti locali o comunque nazionali, significa questo tipo di consumatori pensa che si possa tutelare meglio non solo il territorio ma anche il reddito del nostro paese, ovvero degli operatori economici, cioè sostanzialmente è una catena, diciamo così, non solo che fa capo alla qualità e al prezzo ma anche alla cultura soprattutto, e questo è importante perché poi un'economia sta in piedi perché c'è anche una cultura, insomma. Certo, quello che contestano ovviamente in maniera molto educata gli ascoltatori che ci stanno ascoltando è effettivamente proprio l'aspetto del prezzo che viene praticato attraverso questi canali, e molti sostengono niente da eccepire relativamente alla qualità delle produzioni che ovviamente possiamo trovare in questi farmer market, ma quanto al risparmio, beh, qui invece qualcosa da eccepire lo abbiamo. Masini, vorrei tornare da lei perché in realtà forse anche in altre circostanze, presentando Campagna Amica, avevamo ricordato come quale fosse la misura dello sconto, chiamiamolo così, che si può trovare per i prodotti dell'ortofrutta presso i farmer market, che sono corrispondenti ad una precisa percentuale rispetto invece alle rilevazioni di questo servizio che abbiamo indicato prima, SMS consumatori, prezzi inferiori di circa il 30%? Sì, noi tra l'altro ci siamo impegnati proprio rispetto al messaggio che il consumatore può ricevere attraverso l'SMS a cui lei prima faceva riferimento, cioè questo progetto che le associazioni dei consumatori hanno sottoscritto con il Ministero delle Politiche Agricole per informare giornalmente il consumatore sui prezzi dei principali prodotti, sulle referenze presenti sui mercati, e rispetto a quel prezzo, che costituisce la media rispetto al commercio, abbattere fino al 30% offerta nei banchi dei mercati di Campagna Amica. Ecco, questo è un impegno che riteniamo appunto possa essere realizzato nei luoghi in cui c'è la costruzione di un percorso imprenditoriale garantito da Campagna Amica. Non tutti i punti vendita chiaramente diretti oggi si adeguano a queste regole, a questi disciplinari, quindi sta al consumatore scegliere. D'altra parte non dobbiamo ingenerare neppure l'idea che immediatamente oggi è possibile, scendendo le scale di casa di soprattutto una grande città, raggiungere un mercato di Campagna Amica. Un progetto. Anzi, se così accadesse ci dovrebbe generare qualche dubbio, no? Scusi. Sì, no, dico, se così fosse, se dovessimo trovare ci dovrebbe anche in qualche maniera un po' disturbare. Che noi abbiamo lanciato di raggiungere migliaia di unità in un tempo congruo, soprattutto costruendo con i consumatori, con gli enti locali, con i sindaci, un percorso dei territori. Ecco, perché quello che il farmer market è presente, e anche qui stiamo attenti, non è l'assortimento del supermercato, ma è diciamo la possibilità di valorizzare i prodotti di quei territori e secondo le stagioni. Infatti. Questo è un altro elemento di distinzione per il quale dobbiamo trovare un consumatore maturo e consapevole. Gianni Cavinato annuiva, adesso su questo aspetto ci ritorniamo. Allora, alcuni ascoltatori chiedono intanto come è possibile trovare il farmer market che aderisce all'iniziativa Campagna Amica e al piano spesa sicura di Coldiretti. Io credo che sul vostro sito, Masini, tutte le informazioni ci siano. Tutte le informazioni. Quindi anche il posto più vicino a noi, anche se siamo dei super pigri, sono sicura che qualcosa nel raggio di pochi chilometri lo troviamo. E poi parleremo di SMS consumatori di cui alcuni ascoltatori ci chiedono. Sentirei però anche un altro ascoltatore, che è Roberto da Roma. Roberto, benvenuto. Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno. Io personalmente mi trovo contrariato alla signora di prima, anche perché il fatto principale e fondamentale, cioè io almeno personalmente non vado a spese, nel senso, cioè quando c'è da comprare frutta e robe varie tranquillamente vado al supermercato, che so di preciso che è un prodotto garantito. Non sono della teoria che si trovi per strada, oppure quelle piccole aziende agricole che sinceramente mi lasciano abbastanza dubbioso e perplesso sulla originalità dei loro prodotti. Per carità, mica li voglio mettere in dubbio, anzi, però vedo, diciamo, il supermercato, cioè la grande distribuzione, sì, come fonte di sicurezza, e non ne faccio un problema economico, anche perché, cioè, se ci mettiamo anche a ragionare o a dividere un euro sopra quello che uno deve mangiare, allora penso che se si è arrivati proprio... Beh, Roberto, ma infatti lei ha sollevato un altro problema sicuramente interessante. Io voglio dire, la supporto, nel senso che anch'io sono una grande utilizzatrice, per esempio, della grande distribuzione, banalmente perché sono sola, è la cosa più comoda per me, e trovo che, per esempio, per le mie esigenze, andare a trovare un farmer market vicino a casa mia è un impegno per il quale il gioco non vale la candela. Ma queste sono poi tutte considerazioni assolutamente individuali. L'ascoltatrice di partenza diceva che, tanto per cominciare, avendo un problema legato alla salute del figlio, lei ha fatto una scelta di vita molto, molto specifica, e pertanto si guarda attorno con grande attenzione e nota, conoscendo bene questo mondo anche per esperienza, che comunque non tutti si comportano correttamente, e lei non bada a spese in un altro senso. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che questa mattina ha attirato non poco l'attenzione degli ascoltatori. Stiamo ritornati a parlare, perché l'abbiamo fatto tante volte in questi mesi, dei farmer market, alla luce di questa iniziativa di Coldiretti, il piano Spesa Sicura, la filiera agricola tutta italiana per abbattere i costi soprattutto dei prodotti legati all'ortofrutta. Quindi andiamo direttamente dal produttore, ovviamente a patto che porti il marchio Campagna Amica di Coldiretti, senza discriminare ovviamente gli altri, ma insomma cerchiamo anche di individuare quelle figure di rivenditori ovviamente sicuri. Ma sul problema della sicurezza di ciò che viene messo in vendita sollevava qualche obiezione Roberto da Roma, che dice: io comunque mi ostino, continuo ancora a rivolgermi alla grande distribuzione, di questi canali non mi fido, perché comunque presso la grande distribuzione trovo che il controllo sulla qualità del prodotto sia assolutamente molto molto più forte. Gianni Cavinato, presidente dell'Associazione Consumatori Utenti, ha ragione Roberto? Beh, fino a un certo punto, nella misura in cui ci sono dei circuiti, diciamo così, anomali, cioè ci sono questi ambulanti che partono con i loro camioncini dal sud e poi vanno nei paesi della periferia. Io al mio paese di 3.000... Sì, mi è capitato anche a me di vederne. Io lì a questo vero rivenditore, chiamano, non lo compro. Io non compro, è sconsiglio. Perché innanzitutto è tutto in nero e compagnia, e poi non so se effettivamente che roba, da dove arriva. Quindi se l'alternativa è quella, va no, bene ovviamente. No, cioè, quello non esiste, insomma, cioè, anzi pretenderei come associazione di consumatori un maggiore controllo, insomma, da parte delle autorità competenti, sì, come si suol dire, su questo fenomeno. Urbani, magari, e finanza. Allora, però, vabbè, dopodiché, per carità, fa. Insomma, no, mentre qui stiamo parlando di mercati organizzati, che okay, via via che passano i mesi e gli anni, diciamo così, come i farm market sono forme organizzate di agricoltori che si organizzano attraverso un posto pubblico, un posteggio, diciamo così, pubblico, perché tra le altre cose c'è anche una norma di legge che obbligherebbe, o comunque che inviterebbe, i sindaci a ospitare questo tipo di situazioni. E c'è un disciplinare, c'è una regola, insomma, ci sono le regole del gioco, e queste sono anche oggetto di verifica da parte dell'autorità. Questa cosa del posto pubblico, tra l'altro, mi suggerisce di rivolgervi a lei e anche a Stefano Masini di Coldiretti un'altra domanda, perché c'è un ascoltatore che dice: sì, vabbè, ma insomma, quanto devo spendere di benzina per arrivare in questi luoghi? Ne ricaviamo un vero risparmio magari se ci si organizza per gruppi, se si fa la spesa per più famiglie? Questo è un aspetto che avevamo affrontato con i GAS, i gruppi di acquisto solidale. Questo è ancora un altro aspetto legato alla cultura di certi luoghi di produzione. Però ecco, il punto è: dove ci si organizza? Magari qui mi aiuta Stefano Masini, perché io per esempio immaginavo che una grande azienda agricola potesse costituire il proprio farmer market proprio nel posto in cui è situata. Invece non è esattamente così, o potrebbe anche essere così. È un'altra forma di vendita che non contraddice. Bisogna sicuramente portare più imprese a commercializzare i propri prodotti nelle città e costituire anche un buon approvvigionamento, altrimenti gli scaffali rimangono subito vuoti. nelle imprese agricole chiaramente si vende, anzi oggi noi abbiamo censito 60.000 imprese nel 2009 appunto che realizzano questa forma, sono circa il 7% delle imprese iscritte alla Camera di Commercio, un dato interessante, in crescita, chiaramente è un ventaglio di possibilità, ci sono anche i gruppi di acquisto che lei citava prima, insomma oggi le imprese vogliono andare direttamente al mercato per dialogare con il consumatore. Allora, per rispondere a qualche domanda, il prezzo, è vero, c'è qualche consumatore che non bada a spendere, noi ne siamo ben contenti, ma dobbiamo dire che attraverso la vendita diretta, individuale o collettiva, si aggiunge comunque al risparmio, ma non si toglie né in termini di sicurezza né in termini di qualità, anzi c'è una garanzia in più, quella che diceva prima Gianni Cavinato, l'assoluta garanzia per quanto riguarda l'origine territoriale. Allora, di fronte a gravi crisi come ancora questa che morde in questi giorni, no, dell'influenza legata ai suini, assunta, incubata in altre aree geografiche, così come in passato l'influenza aviare o ancora prima la mucca pazza e altri fenomeni che hanno interessato anche l'Europa, i polli alla diossina, scandali alimentari, qui c'è la garanzia della filiera italiana, con una responsabilità, per chi acquista un prodotto si trova di fronte, per così dire, il suo costruttore, cioè chi in effetti ha realizzato quel prodotto abbattendo tutte le fasi che hanno nascosto anche dei profili di responsabilità. Questo è un fatto importante. C'è anche chi solleva questa considerazione. Masini dice: io frequento questi posti perché mi piace anche guardare in faccia il produttore al quale mi rivolgo. Sentirei altri ascoltatori. Rosanna, ne ho due in diretta, una da Verona e una da Pavia, che le saluto. Comincerei con l'ascoltatrice di Verona perché mi pare di capire che abbia avuto invece un'esperienza non del tutto soddisfacente con un farmer market. Che cosa le è successo, Rosanna? Sì, diciamo un'esperienza negativa per quanto riguarda frutta e verdura, che i prezzi eccessivi, secondo la mia opinione, quando dovrebbero essere leggermente inferiori al supermercato. E poi ho trovato gli stessi signori che vendevano frutta e verdura in questo farmer market, li ho trovati in un supermercato che compravano la frutta e verdura che vendevano lì. Ma questa è veramente bella, Rosanna. Sì, guardi, siccome conoscevo le persone, non è che mi sono sbagliata, voglio dire. No, ma infatti nessuno assolutamente mette in dubbio questa circostanza nella quale è incappata Rosanna. Allora, io volevo sentire Gianni Cavinato sull'aspetto del prezzo, poi a prescindere dall'episodio specifico, che insomma, cioè, chi addirittura acquista dal supermercato per spacciare poi prodotti che mette sul banco come prodotti della propria terra, vabbè, ma a parte questo, quanto ragionevolmente un consumatore deve aspettarsi di spendere meno rispetto al supermercato? Facciamo proprio questa equazione banale. Beh, l'equazione banale è che lei dice, insomma, Rosanna dice: mi aspetto di spendere meno del supermercato, al di là della qualità in più che magari può trovare all'origine certa del prodotto. È noto che è un ricarico tra il produttore e il venditore finale, il supermercato, la grande distribuzione, e poi, come si diceva prima, può arrivare a 2, 3, 4, 5 volte tanto. Infatti, quindi, per far capire l'ordine di grandezza, la potrebbe essere quella. Ecco, però attenzione, tutto il meccanismo che qui stiamo cercando di motivare anche culturalmente, non soltanto come beneficio di prezzi economici e basta, insomma, no, per il consumatore. Diciamo che c'è l'esigenza anche da parte dell'agricoltore, non a caso i dati che diceva anche Masini, cioè aumentano le aziende agricole che si dedicano alla vendita diretta, mettiamola così, insomma, no? È perché l'agricoltore per decenni ha patito e continua a patire questo tipo di erosione della distribuzione rispetto ai suoi guadagni, diciamo. È chiaro che qui non si tratta di che se ne approfitta in questo momento. Si tratta di recuperare i costi che la produzione agricola italiana ha avuto e ha. Questo è un problema che il consumatore normalmente non conosce. Io posso permettermi di dire questo perché la materia la conosco, voglio dire. Cioè, abbiamo interpellata per questo. Ecco, però è evidente che la maggior parte dei consumatori non sa cosa succede dietro le quinte, diciamo così. Quindi lo sforzo che noi che bisogna fare è appunto capire cosa c'è dietro i farmer market, cosa c'è dietro l'agriturismo, cosa c'è la vendita diretta tra produttore e consumatore, c'è tutto questo sforzo ed è evidente che gli agricoltori vogliono recuperare la loro situazione, e comunque vendere comunque costa, voglio dire, cioè non è che, cioè, uno può avere anche il posteggio a prezzi ridottissimo, però comunque costa. Quindi insomma, per sintetizzare, quello che dobbiamo aspettarci è un 20-30% in meno, ecco. Però dipende molto dalle situazioni, dalle settimane, ecco, dal clima, dalla stagionalità naturalmente, certo, del prodotto, dire, che ci se serve. Se questa settimana piove in continuazione è difficile anche andare a raccogliere la merce. Quindi insomma, magari i prezzi praticati attraverso questi canali sono molto più variabili rispetto a quelli invece del supermercato. E poi bisogna abituarsi che la varietà, no? Le referenze sono decisamente diverse e inferiori normalmente a quello che può offrire la grande distribuzione, che ovviamente compra roba da tutto il mondo. Insomma. È un mondo da conoscere, insomma, magari frequentare un po' più spesso. È chiaro che se si praticano una volta, fare domande, se si praticano una volta ogni tanto, è chiaro che poi magari il beneficio proprio in termini di risparmio puro non lo troviamo, proprio perché banalmente li frequentiamo poco, e poi quindi la dinamica, insomma, di quello che accade, di provare è più difficile prodotti, seguirla, assaggiarli, cucinare, cioè, voglio dire, il problema è fare i confronti, cioè insomma il problema è che bisogna entrare in un mondo che forse noi molti consumatori non hanno dimenticato, non l'hanno mai conosciuto, questo è importante. Eccoci qua, allora ci stavamo interrogando anche con la mia collaboratrice Valeria Coffaro a microfoni spenti, insomma su un aspetto che credo che sia centrale di tutta la questione che stiamo affrontando questa mattina, ma insomma come possiamo come utenti finali poi riconoscere davvero la qualità del prodotto che vogliamo comprare, e attraverso il canale appunto del Farmer Market o attraverso il canale della grande distribuzione, qui parliamo appunto di prodotti tipici della nostra terra, l'ortofrutta, il tema è un po' completamente a questo punto potremmo dire non più di ordine economico, anche se questo è l'aspetto che prevalentemente ci piace affrontare a Salvadanaio, ma proprio culturale, qui è necessario un cambiamento di rotta probabilmente anche nelle nostre abitudini, ma non è facile, io non sono tendenzialmente una pigra, ho proprio esigenze di vita radicalmente diverse, frequentare il farmer market per me è un po' problematico, però detto questo l'opportunità adesso c'è e ci sono appunto anche delle offerte ben precise attraverso questi canali che ci possono far risparmiare dal punto di vista economico, ma soprattutto far guadagnare in qualità e probabilmente anche in salute. Vorrei sentire ancora altri ascoltatori e poi ritornare con gli amici della Coldiretti con Stefano Masini. Allora, Rosanna da Pavia. Sì, io mi chiedevo, ma perché non insistere invece con la grande distribuzione ad ospitare queste persone? Perché ancora la crescita di capannoni, parcheggi, gente che va alla spesa da una parte e dell'altra? Se di cultura si parla, cresciamo in questo senso, cioè io non credo che il coltivatore che viene al mio mercato ogni mercoledì, io lo conosco, so che è del paesino qui a fianco, non credo che nascerà un nuovo contadino, cioè il tizio che fa le pesche arriva a Nazzano, che va alla coppa, scusi, al supermercato, portarglielo. Lo conosco, può essere chiunque, la casalinga lo sa benissimo. Guardi Rosanna, lei, ho voluto con forza la sua telefonata in diretta avendo visto che si era prenotata, perché lei ha proprio, come dire, affondato il coltello in una piaga, diciamola così brutalmente. Stefano Masini, io so che presentando la vostra iniziativa Piano Spesa Sicura, a cui ha partecipato il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, proprio Scajola ha annunciato di aver avviato una mediazione con la grande distribuzione per, ha detto lui, favorire rapporti più equilibrati e riservare spazi ai prodotti locali. È un'esigenza molto chiara questa, mi sembra. Si può portare, come dire, la montagna a Maometto, Maometto alla montagna, come la vogliamo mettere? No, l'osservazione della signora che ha introdotto l'argomento è molto equilibrata, ma centra diciamo il cuore al problema della distribuzione, dove attualmente transita il 70% delle derrate alimentari. Noi già in passato avevamo tentato di costruire questo diritto allo scaffale, vale a dire una riserva di uno spazio minimo in percentuale delle offerte in vendita. Poi l'autorità garante della concorrenza aveva dichiarato che questa riserva di uno spazio dei prodotti del territorio violasse le regole del commercio, e siamo tornati allora ad affrontare di petto la questione, e a questo punto ci si aspetterebbe che volontariamente la grande distribuzione potesse convenire con degli accordi, con delle c'è un'apertura in questo senso, insomma, secondo quello che avete potuto esplorare fino ad ora? Il buon senso, cioè dedichiamo una parte dei nostri scaffali ai veri prodotti italiani, quelli del territorio, quelli che la signora magari ha occasione di conoscere, cioè quelle che invece molti non conoscono e vorrebbero apprezzare, perché l'altro elemento, come facciamo a distinguere la qualità? Sicuramente, ancora una volta, imparando a riconoscere i prodotti in prima persona, non per delega, sapendoli preparare, cucinare, assaggiare, degustare. Ecco, lì c'è diciamo, la differenza tra un prodotto che magari viene da lontano, fuori stagione, che una, appartiene a una diciamo, varietà diversa, i prodotti a cui solo la memoria in effetti ci consente di legare le nostre tradizioni e costumi alimentari. Allora, no, tra l'altro quello che stavo a cui stavo pensando adesso ascoltando la sua risposta, Masini, che magari ci servirebbe anche un bel supermercato del tempo, perché io le dico anche che per tutto questo, per quanto sia un obiettivo lodevole verso cui dobbiamo tendere, ci vuole anche del tempo. Abbiamo una vita talmente terribile, almeno molti di noi, adesso non dico che tutti quanti vivano nella modalità di Milano, però sono anche, come dire, proprio abitudini di vita verso le quali, ribadisco, probabilmente dovremmo tendere, ma è un discorso veramente complicato. Detto questo, comunque quello che poi mettiamo in bocca è importante che venga guardato per avere la massima qualità. Tra l'altro mi sta facendo osservare la mia collaboratrice che su Studio Aperto stanno facendo vedere la Coldiretti che a Napoli sta presentando la vera pizza italiana, giusto Masini, questa mattina? Sì, sì. Come mai? Che cos'è questa iniziativa? Anche qui per insomma dire al consumatore attenzione agli inganni. Quando insomma acquistiamo o ordiniamo una pizza dobbiamo oggi sapere che il 50% della farina di grano tenero è importata, la metà delle bottiglie di olio d'oliva consumate viene dall'estero, la metà delle mozzarelle non è a denominazione d'origine, addirittura spesso è fabbricata con cagliate straniere, anche il pomodoro in percentuale viene dalla Cina. Allora anche qui occhio, la pizza è un alimento straordinariamente buono che ci rende conosciuti nel mondo, però insomma costruiamo e facciamo una pizza con ingredienti italiani. Cavinato, allora cosa ci facciamo con SMS consumatori? Io ricordo questo numero che è il 47947, lo strumento per una spesa intelligente, così recita il sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che lo presenta. È un vero e proprio servizio che attraverso il cellulare si fa quel numero e si chiede quanto costa l'insalata oggi a Milano. Il messaggio intanto quanto costa? È un servizio gratuito? Esattamente, sì. Comunque ogni giorno in circa 45 città italiane vengono rilevati i prezzi da parte delle associazioni dei consumatori. Questi prezzi su circa 80 referenze, poco più, vengono caricati nel senso fisico del termine su questa banca dati, insomma, no? E c'è l'accesso appunto anche via internet ovviamente di questi dati. Infatti io sono venuto qui con me stamattina con alcune schede giusto per essere preparatissimo guardi, non ho nulla da eccepire sulla preparazione con il quale è arrivata Salvadanaio. Voglio dire, non so, facciamo qualche esempio di qualche prezzo rilevato questa mattina, ecco. Sì, beh, cominciamo di ieri cioè, quelli di oggi li vedremo non prima delle 3 di oggi pomeriggio. Ieri che prezzi venivano praticati? Le fragole, il prezzo medio nazionale era 3,75 al chilogrammo, no? Mentre il prezzo all'origine di queste fragole, perché questa schermata è l'unica videata, insomma, no? Era 1,60. Quindi interrogamente andando da un farmer market che le vende dovremmo trovare poco al di sopra di quel prezzo là. Dovremmo quantomeno stare a metà tra il 3,75 e il 1,60. Esatto, cioè proprio se vogliamo mantenerci larghi. Facciamo solo questo esempio per carità. Vediamo le differenze che ci sono tra il nord e il centro e il sud. Vediamo sostanzialmente l'andamento degli ultimi 15 giorni. In poco più di 7-8 dati noi abbiamo i prezzi della filiera delle fragole, così pure per il pane, la farina, il prosciutto crudo, il prosciutto cotto, molte varietà, specie di pesci, compagnia bella, le carni ovviamente. Ecco, questo è importante. I dati ufficiali di accesso parlano di 500.000 di persone, poche secondo me, che hanno visitato e hanno appreso, diciamo così, questo tipo di informazioni. Importante fare molto di più, cioè la gente deve abituarsi, almeno quelli che hanno accesso a internet, insomma, attraverso, se infatti proprio sono anziani, magari attraverso i nipoti, i figli, insomma. No, ma tra l'altro stavo pensando, cioè la scuola, signora di Roma di 82 anni che voleva telefonarci per chiederci dove trovo la Coldiretti, ecco, quindi è chiaro che non tutti hanno accesso a questi sistemi informatici. Dubito appunto che una persona di 82 anni sia così facile per lei, insomma, avere. Però in ogni caso diciamo che sono strumenti dell'era moderna, mettiamole così, insomma, quindi l'era moderna ci offre anche la possibilità di conoscere il prezzo della lattuga a Bolzano, anche se abito a Milano, in tempo quasi reale, diciamo così. Io lo ricordo allora questo numero, ne abbiamo parlato tante altre volte, ma se serve ancora ancora informarvi su questo. Eccoci qua, 47947, si può inviare un messaggio per la richiesta del prezzo con l'articolo che ci interessa. Il numero di sms di richiesta prezzo è possibile per 5 volte al giorno e 30 volte mensili. Ulteriori richieste non è che vengono fatte pagare, non vengono prese in considerazione, ma non è che adesso stiamo lì tutti il giorno, più di 5 prodotti credo che non ci serva. E comunque c'è sempre internet, per cui esattamente. Allora, io sono indecisa se far sentire un'ultima telefonata, magari cerco rapidamente Elisabetta, gentilmente, se può essere molto sintetica perché stiamo chiudendo, però mi piacerebbe sentirla. Buongiorno. Buongiorno, io volevo dire due cose velocissime. Grazie. Io sono una produttore, produco latte, però secondo me la storia dei farmer market è una soluzione assolutamente anacronistica. Oggi la gente vuole sicurezza alimentare e comodità e velocità, non abbiamo tempo. Io sono una donna, faccio i salti mortali per andare a fare la spesa. Che è quello che dicevo io, sì, Elisabetta. Non mi sognerei mai di mettere il distributore del latte, perché la gente vuole essere sicura di quello che acquista. Quindi io stessa vado a comprare nella grande distribuzione prodotti sicuri. La soluzione ce l'abbiamo già in casa. Gli agricoltori si devono unire, devono costituire le cooperative, devono fare una massa importante per fronteggiare il potere della grande distribuzione. Questa è la soluzione. E poi produrre delle cose con una filiera controllata. Già quello parla da solo. Il consumatore va lì e sa che quella cooperativa controlla dall'origine tutto quello che è stato fatto. Io per esempio il mio latte lo do a una cooperativa importante. Perfetto. Di Cremona, che è la latteria Soresina, e questa è la soluzione del problema degli agricoltori. Elisabetta, io la ringrazio moltissimo per la sua bellissima testimonianza, non riesco a farla commentare da Stefano Masini di Coldiretti e Gianni Cavinato dell'ACU, però insomma se la strada deve essere questa, probabilmente tutti coloro che sono interessati ai meccanismi della filiera e della produzione dell'ortofrutta nel nostro paese sono sicuramente che si sensibilizzeranno intorno a tutte le possibili vie per garantirci prodotti sicuri, ma soprattutto a prezzi anche ragionevoli, perché poi con Elisabetta questo aspetto non l'abbiamo affrontato. Grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata.